Scusate se intigno. Io non ho ancora capito di che ci accusate. D'aver speso troppo o di non aver risparmiato? Ma avete idea voi di quello che è capace di magnarsi un legionario? Magnerà. Magnerà, chi lo nega? Ma un po' di parsimonia. Che accidenti. Dico, qui mi ci hai messo 50 dracme a cranio. Oh, bisognava risparmiare. Avevamo risparmiato sui morti. È vero, c'ha ragione l'asiatico. A Magnesia la battaglia decisiva è costata Red City a 50.000 uomini, senza contare gli ofanti da battaglia e i vascelli. Roma che ha perso? Solo 300 fanti e 24 cavalieri. Manco una rissa, dico io. Abbi pazienza, pure sti risparmi contano. Poi non si sa, il soldato in guerra pensa solo a magnà. Magna e muore. E tu di fronte allo spettro della morte gli stai a lesinare magnà. Ma il fatto è che voi avete seguitato a magnà pure dopo che lo spettro della morte si era dileguato. Ma intanto la pace romana stendeva l'ala su tutta la Siria. Agatù, eppure queste cose contano. Il legionario magna, la civiltà cammina. Non remontate la capoccia e ricordatevi chi siete. Vai, va. Ma quale civiltà, romani? Per tirar su una casa che non fosse una casa vecchia, avete dovuto ricorrere ai greci. Ma prima gli avete dovuto menà. I ritratti, le pitture a sguazzo, i pupazzi di marmo e di bronzo, i nonni morti a mezzo busto, quelli ve li siete fatti fa dalle etruschi, a forza di sganassoni. Quando poi si è trattato di scrivere due righe di storia patria, avete dovuto piare in ostaggio un altro greco, Polibio, perché a Roma quello che sa scrivere meglio si è non sa fa la firma. Dice, ci avemo Plauto che scrive le commedie, eh? Un par de ciufo. Ma che scrive Plauto? Plauto copia. Copia le commedie dei greci e dice che l'ha inventato lui. Per cui, giovanotti, io vi sto per dare una gran brutta notizia. Tutta sta civiltà, sta cultura vostra, non è altro che bottino de guerra. Là. Buon pomeriggio signore e signori e benvenuti a SPQR. Sono pelle rossa questi romani. Spettacolo sul traffico. Io già mi immagino alcuni di voi sintonizzati all'ascolto. Amore, amore. Ma ci dovevamo proprio sentire il solito pippone sul traffico. Che voleva di? Non era mai se sta andando a mangiare un panino dallo zozzone di Porta Maggiore? Lo sai che con la cultura non si magna. E invece siete qui, seduti e completamente a digiuno nell'attesa che io spari la cazzata del secolo per girarvi verso la vostra metà e dirle: te l'avevo detto io che era meglio lo zozzone. Certo, stai lì fra tram, autobus, treni e macchine che rischi la vita per mangiarti un panino, ma vuoi mettere? Lo zozzone è un'istituzione, è il miraggio degli affamati nella notte, l'oasi nel deserto. Io vi dico subito una cosa, pure secondo me facevate meglio andare a trovare, perché non c'è competizione. Panini, salsicce, fettine, formaggio fuso, le melanzanine sott'olio, oddio mio. Ma ormai siete qui, tanto va la staccia a sentire, che magari se famo due risate dallo zozzone ci andiamo insieme a fine spettacolo. E vi dico di più, se vi divertite pagamo noi. Oh, stiamo recitando? Allora cominciamo. Prima cominciamo e prima andiamo dallo zozzone. Minuti al giorno nel traffico. 105 minuti. Più di una partita di calcio, quanto un film al cinema, molto più che sul water la mattina. 105 minuti. Con la differenza che io, dal bagno, ci esco col sorriso. Quando arrivi a Roma da un piccolo paese, il traffico è un nemico subdolo, sconosciuto, sottovalutato. Per me il traffico, fino ad ora, era il trattore di Fiorella, 20 all'ora sulla strada del monte. O la Petto di Mario, che porta la legna al paese, lungo una stradina di montagna, in mezzo ad alberi, uccellini, aria pulita. Tempo stimato per andare al lavoro, 7 minuti, Fiorello e Mario compresi. che a Roma più o meno sono il tempo che impieghi per andare da un semaforo all'altro nei giorni fortunati. I giorni sfortunati invece sono molti di più. E così, senza che te ne accorgi, passano le settimane, i mesi, gli anni, e realizzi che o tutti i tuoi ex ti hanno fatto il malocchio, o molto più probabilmente, la vita a Roma è anche questo, il traffico. E quando lo realizzi, viene assalita da una grandissima voglia di fare bagagli e tornartene da dove sei venuta. Pure se te ne eri andata perché non sopportavi più la mentalità a barattolo della provincia del centro Italia. Beh, allora, benvenuta nella grande metropoli. Ti presento il tuo nuovo amico, il traffico. E il tuo nuovo nemico, il tuo cervello, che dentro al traffico ci sta stretto, stretto, stretto, stretto, stretto. Presto, presto, presto, presto, che è tardi. Dai col caffè che sono le 7:35. Porta una felpa che stasera fa freddo. Borsa, telefono, sigarette, ok, c'ho tutto. Chiudi la porta. Merda, le chiavi. 7:41, scavalca il cancello e suona alla vicina. Sì, signora Rosa, ho dimenticato di nuovo le chiavi dentro. Sì, signora Rosa, lo so che c'ho una testa. Lo so, me lo dice anche mamma. Mica sarebbe però così gentile da aprirmi. Però veloce, signora Rosa. No, no, no, no, l'ho già preso il caffè, le chiavi, signora Rosa. 7:59, di nuovo giù per le scale. Corri, corri, corri alla macchina. Cazzo, dove l'ho parcheggiata ieri sera? Mi ricordavo che era davanti alla Conad, ma ora non c'è. Davanti all'edicola. E mo chi lo senta quello? Sì, sì, lo so che non è un parcheggio. Sì, mi scusi, è che era tardi ieri sera. Io ero così stanca. Sì, lo so che non ci sono scuse. Fanculo, edicolante di merda che abita la strada parallela e viene a lavorare a piedi. Fanculo. Sì, me ne vado subito, non si preoccupi. 8:07, salgo in macchina, schizzo via verso la tangenziale. Appena imbocco la rampa, tutti fermi. Mi accodo mestamente. Accendo la radio per distrarmi. Gigi D'Alessio canta "Tu che ne sai". Spengo la radio. Guardo il telefono, nessun messaggio, zero mail e WhatsApp, nemmeno una cazzo di notifica da Facebook. Spizzo tremante l'orologio. 8:23, sono in ritardo, cazzo, in fottutissimo ritardo. L'INPS apre alle 8:30, ma ci sono i vecchietti che arrivano col primo pullman all'alba e si piazzano davanti al cancello ad aspettare. E quando arrivi tu alle 8:29 in punto, raggiante di essere arrivato un minuto prima dell'apertura, nonostante le mille disavventure, ti trovi davanti un bivacco di capelli grigi che ti guardano con fare sospetto e si incordonano per farti capire che no, non lo prenderà il bigliettino prima di noi. Approfitti di un momento di distrazione e, in memoria del collega che è morto aspettando il suo turno lo scorso maledetto lunedì, ti infili l'esta e, come una faina, sali le scalinate facendoti largo tra ottantenni e imprenditori alle prese con i buoni dell'INPS. E mentre raggiungi trionfante in buona posizione la macchinetta che distribuisce i biglietti, ti senti urlare da dietro: dove va lei? Fa la furba? Lo sa da che ora sto qua? Dalle 5:30. E a me che cazzo me ne frega da quanto stai qua, maledetta stronza? Io non voglio fare la fine del mio collega. E zzz, esce il biglietto e sei il numero C143, 32 clienti in attesa. E ti viene pure da dire: beh, dai, poteva andar peggio. E intanto la signora che ti ha appena rimproverata ti minaccia di morte due file più indietro. Allora fai la vaga, ti rilassi, perché il nemico, il traffico, non deve sentire l'odore della paura. E cominci a studiare a memoria tutti i prezzi del distributore automatico di snack di fronte a te. E nel frattempo scopri che la Sant'Agata c'ha la stessa etichetta dell'Alete, che è anche la stessa della Ferrarelle. Ma pensa te che trovata di marketing! Genio! Chissà quanto cazzo guadagna. Nel frattempo scorrono numeri sul contatore, ormai alzi gli occhi solo se suona quel campanello, come il riflesso del cane di Pavlov, e ti accorgi che tutti intorno a te fanno lo stesso, all'unisono. E capisci che è entrato prima perché ormai riesci a distinguere tutte le sfumature di quel campanello: un suono, una lettera. E invece gli ultimi arrivati, più belli, guardano nervosamente il contatore ad ogni fruscio di vento. C143, sportello 4. Ti accoglie una strappona con scollatura fuori luogo, nessun accenno di sorriso e un evidente scopo di ignorarti. Buongiorno, avrei bisogno del modello ANF43, orgogliosa di aver studiato per 2 ore la sera prima tutti i moduli dell'INPS, sigle comprese. Sa, lo avrei dovuto ricevere da voi lo scorso anno quando ho consegnato la domanda, ma forse ve ne siete dimenticati. Ok, forse potevo essere più diplomatica, ma non sono nemmeno le 9 e io c'ho già 180 su 120 di pressione. E comunque ha detto forse. No, non ce l'ho l'aglio qui. Sì, a casa ce l'ho. Sarà stata forse la bruschetta di ieri sera. Ma che c'entra l'aglio? Ah, c'entra l'aglio. L'aglio c'entra sempre con la pressione. Vabbè, mo me lo segno. Dopo questo splendido teatrino sulle benefiche proprietà dell'aglio, torniamo ai nostri ruoli. Risponde alla mia domanda con una laconica faccia perplessa. Nonostante lavori all'INPS da più di 4 generazioni, alza lievemente lo sguardo e, anche se ha capito benissimo, fa finta di non capire. Glielo leggo in faccia. E sta storia va avanti così per 20 minuti finché non raggiunge il suo scopo. Anche stamattina è riuscita a mortificare l'ennesima persona che ha avuto la sfiga di doverla incontrare, cioè io, che già devo fare altri 6 chilometri di fila per andare al lavoro, 2 riunioni col capo e col capo del mio capo per la revisione del bilancio, che siamo pure in perdita quest'anno, 3 Skype per il progetto sull'orso marsicano e, per concludere in bellezza, un bel aperitivo a suon di spritz e spratz con i simpatici colleghi di Milano. In confronto a quello che mi aspetta fuori fra poco, i suoi tentativi di farmi sentire un idiota sono patetici. E lei, mia cara, è terribile come un cucciolo di cerbiatto. Pensi che in confronto al mio ufficio, questo posto mi è perfino simpatico. Alla fine, la grandissima stronza banalizza la questione con un «Oh, quindi volevo una copia dell'autorizzazione». Sì, cara, volevo soltanto una copia dell'autorizzazione, ma visto che qui all'INPS vi piacciono tanto letterine, cifre e siglette varie, l'ho fatto per voi, per aiutarvi a capirmi. E ad un tratto ho capito. 1, che non mi capisce affatto. 2, che anche qui è come nel traffico, vale la regola del tutti contro tutti. La signora allo sportello mi odia perché per colpa mia e degli altri contribuenti che non sanno esprimersi ha un lavoro noioso e ripetitivo. E le persone che erano in fila davanti a me mi schifano perché ho trasgredito la regola delle regole. Si rispetta la fila. Ma io ormai, tra file, caffè, moduli e disperati tentativi di rispettare la mia tabella di marcia quotidiana, provo solo vendetta, odio, fame. È spirito di sopravvivenza, come nella giungla. E di colpo un giorno ti guardi allo specchio e ti ritrovi con più capelli bianchi di tuo nonno. La pelle opaca e olivastra, ma non è abbronzatura. Figuriamoci se ti metti in fila sulla Roma Ostia. È lo smog che ti abbronza, ti spegne lentamente. E gli occhi sempre iniettati di sangue per il nervoso, con la pressione di un manager in carriera, anche se lavori alla cassa del Carrefour. E pensare che, appena arrivata per consolarti, ti avevano detto: tranquilla, è forte l'inizio, poi ti ci abitui. E tu ti sei fidata dell'indubitabile esperienza di un romano di 3 generazioni, povera, sciocca, ingenua. Puoi riderci su, impararci a convivere, minimizzare, perfino studiare a memoria il tutto città. Arrenditi, il traffico a te. E tu non ci puoi fare niente. È quel rapporto di amore e odio degli amanti, troppo poveri da soli e troppo ricchi insieme, non può durare. Questi capelli bianchi li ho visti crescere poco a poco, uno a uno, ne conosco pure i nomi. Ognuno porta una sua storia e molti di loro sono legati ad eventi che hanno a che fare con le file, la macchina e il traffico. Io odio il traffico. Lo odio, lo detesto come la peggiore delle sventure. Tu, traffico, devasti le mie giornate, mi fai arrivare tardi al lavoro, coltivi la mia ansia, distruggi la mia determinazione e mi rendi quella che sono ora. Perciò ti odio, traffico, tu sei il mio incubo quotidiano, la mia accetta dei desideri, il mio dito medio alzato, la persona che non sono e non voglio essere. Come si può sopravvivere in questa giungla urbana? Tra macchine in doppia fila, motorini che sorpassano da destra, autobus, tram, ambulanze, vigili, pedoni. È una sorta di pegno che devi pagare per abitare nella grande Roma capitale. E poi ci siamo noi, gli abitanti del traffico, gli automobilisti, dotati di una pazienza infinita, allenata da ore ed ore di viaggio, esperti di guida sicura. Ma non sbagliare a mettere la freccia. Le frecce sono roba da indiani. 40 chilometri tondi tondi, più altre 18, e fai per due. Però c'è la sosta metano, che non conta. Togli 6 andare, 6 tornare. Però se allungo da Bufalotte e faccio le stradine, evito la tangenziale che oggi piove. Miliardi di combinazioni da tenere sempre a mente per far sì che un normale tragitto casa-lavoro non diventi un fottutissimo incubo. Unico alleato, l'ironia, quella per cui Romano è famoso nel mondo. Tipo al semaforo, hai presente quando ti capita davanti il solito narcolettico? Scatta il verde, lui dorme e tu dietro... Oh, che famo, aspettiamo il blu... Quell'ironia tagliente, ma rispettosa. Una sincera aggressività, oltre a una connaturata predisposizione alla presa per i fondelli. Però i romani non sono così di natura. Ci sono diventati, col tempo e col traffico. Ma soprattutto col traffico. Ci riconosci dalla sciatica da frizione, la spalla sinistra incriccata per parcheggiare con una mano sola perché così fai prima, e il collo a 45 per l'aria condizionata. E te incattivisci, sì, te incattivisci. E sono una signora, qua, mica nel traffico. Lì sono spregiudicata, paracura. Se una cosa non la posso fare, la faccio apposta. A Roma abbiamo il traffico. Già. Abbiamo la pioggia, che non è come dalle altre parti. Il Colosseo e le Rue Marlène. La Pontina, la Nannina, la Tiburtina e poi l'Aurelia. Abbiamo il GRA, corsia interna, l'A24, l'autostrada nel centro, Porta Portese 2, quello sulla Togliatti, e il centro commerciale più grande d'Europa, Euroma 2. Abbiamo l'Olimpico, la Roma Ostia e la stazione Termini, e poi le ville, la Casa dei Sordi e il cimitero dei Gramsci. Ci abbiamo tutto e non ci abbiamo niente. Perché se disgraziatamente decidi di uscire, ci devi contare sempre due variabili: il traffico e il parcheggio. E siccome io a Roma non ci sono nata, non ho difese contro il traffico. Ed è qui che nasce l'idea di questo spettacolo. Pensavo a me e a sti altri 2 milioni di poracci incazzati nel traffico, e mi è venuto in mente Toro Seduto. Se mi devo pensare nel traffico, mi immagino come Toro Seduto, scoglionato e per l'appunto seduto. Gli automobilisti sono una grande tribù, e come in ogni tribù c'è sempre un capo. Toro Seduto è nato in macchina e molto probabilmente ci morirà. Per lui la vita non ha senso se non su 4 ruote. Nella sua auto può trovare di tutto, dallo spazzolino col dentifricio all'intera enciclopedia di famiglia. Oltre ad un morbido cuscino per alleviare le piaghe da decubito, avanzi di cibo e rifiuti di ogni tipo. L'ultima volta che sua moglie ha provato a farlo scendere dalla macchina per farsi una doccia, ha dovuto desistere e mandarlo all'autolavaggio automatico col doppio di gettoni. Metà per lui, metà per la macchina. Puoi trovarlo quasi sempre al McDrive di via Tiburtina. Tutt'al più abbandona la sua macchina solo per un panino mordi e fuggi al succitato zozzone di San Lorenzo. Un romano DOC, anzi IGP, Indicazione Geografica Protetta, conosce personalmente tutti i semafori del tragitto casa-lavoro. Quanti pedonali e a quanti il verde scatta prima. Calcolare male i tempi di un semaforo può costarti l'umore e anche la giornata, soprattutto se finisci dietro a Mina Vagante. Mina vagante. Ingegnere uomo, sull'ottantina. Guida un bambino color crema, lo stesso da 27 anni. E indossa questo. Un bellissimo cappello. Lo riconosci perché possiede lo straordinario potere di far diventare rossi i semafori. A te però, lui passa con l'arancione e ti fotte. È l'unico automobilista che si mantiene sempre 30 all'ora sotto il limite di velocità. Lo superano scooter, bici, pedoni, perfino nomadi in carrozzina, ma lui niente, sempre inchiodato ai 20 all'ora, costi quel che costi. Il più delle volte ti accorgi di lui quando è ormai troppo tardi. Una volta riconosciuta la sagoma del cappello, non ti rimane che una cosa da fare: pregare che abiti lì vicino e chiamare a casa dicendo che farai tardi. Poi il gioco m'ha preso e ho pensato a quale nome di capo tribù si addicesse Emiliano, l'amico mio. Quello che tutte le volte che decidiamo di uscire, alla fine restiamo sempre a casa. Emiliano è il pessimismo cosmico. Non nella vita. Nella vita è sorridente, cordiale, gentile con tutti. Ma c'ha una rabbia dentro. Da quella mattina che doveva arrivare presto al lavoro e gli hanno chiuso la galleria della tangenziale per pioggia. I romani avranno pure inventato l'acquedotto. Male fogne. Appena fa due gocce si allaga tutto e le strade consolari diventano una mostruosa trappola per chiunque sia nei paraggi. Te ne accorgi quando senti l'Onda Verde, dove la coda è sempre tra Bologna e Borgo Panigale, la Venezia Mestre, la Firenze Pisa Livorno e la tangenziale di Roma tra Portonaccio e il bivio con l'A24. Quello che la gente non sa, quelli che non vivono a Roma intendo, è cosa significhi vivere col traffico quotidianamente. Il traffico è la tua prima e ultima sfida giornaliera e quando va bene vinci la partita, ma mai il campionato. Sei l'eterno secondo di una gara in cui c'è sempre lo stesso vincitore. Ma non sei tu. Per questo il mio amico Emiliano si è sfiduciato e scoglionato, come Re Corvo. Re Corvo, il pessimista. Per lui c'è sempre traffico. Anche la domenica di blocco totale della circolazione esce da casa 3 ore prima per paura di trovarsi in mezzo alla coda. Il suo mondo non è bianco e nero, è solo nero, come il suo umore al mattino al pensiero di mettersi in macchina. Insofferente alle risate altrui, alla musica ad alto volume e a qualunque cosa non sia un borbottio o un lamento, lo riconosci perché è sempre sintonizzato su Luce Verde. Pure alle 2 di notte. Si serve di uno speciale navigatore satellitare collegato con la NASA, attraverso il quale è capace di prevenire anche le code che devono ancora verificarsi. Non esce mai di casa, nemmeno a piedi, senza un piano alternativo di viabilità. E insomma, il traffico ti condiziona la vita, l'umore e le giornate. Il nostro amico e capo tribù Re Corvo lo sa bene. Per questo ha dichiarato guerra a semafori, vigili urbani, macchine in doppia fila, lavavetri, ma soprattutto a cavallo bianco, acerrimo nemico, che al suo contrario nel traffico non fa una piega. Cavallo bianco, elegante nella sua Audi A4 bianca, sempre pulita e lucidata, non si scompone mai. Nemmeno dopo 4 ore di fila. Questo miracolo avviene, lui dice, grazie al grandissimo comfort della sua auto, che lo mantiene fresco, pulito e calmo in ogni momento della giornata. Nemmeno fosse un assorbente. Esce dall'abitacolo sempre in perfetta forma smagliante, con i capelli sempre in ordine e l'aria di chi è appena uscito dal centro benessere. In caso di controversie e di sinistri, tira direttamente fuori dal bagagliaio il suo avvocato di fiducia, senza scomporsi mai! Nel traffico, tra gli automobilisti romani, vige una sorta di codice stradale invisibile, sconosciuto ai forestieri, che però è fondamentale acquisire e rispettare. Coincide solo in alcuni punti con quello della strada, ma ti insegna qualcosa di molto più importante: la sopravvivenza nella giungla metropolitana. La propria, ovviamente. Coda di sciacallo è il re della giungla. Coda di sciacallo, si accoda sempre alle ambulanze insieme ai motorini per svicolare abilmente nel traffico. Per lui la coda è la più grande sventura mai capitata al genere umano, dopo le domeniche all'Ikea, la plastilina colorata sotto i piedi e la messa della domenica. Quelle erano le volte che per evitare la coda riesce ad imboccare la strada giusta, lo vedi trionfante sbucare contromano da vicoli che non sono nemmeno segnati sulle cartine, con il dito medio alzato in segno di vittoria. Non c'è corsia preferenziale che non lo abbia ospitato almeno una volta. Ha più contravvenzioni lui che tutti i parlamentari messi assieme. Come in tutte le catene alimentari, il pesce grosso ha sempre bisogno di un pesce piccolo da mangiare. E qui arriva la nostra prima vittima, Cervo Volante. Cervo Volante è la valvola di sfogo degli altri automobilisti, vittima inconsapevole di Corna, di Dimedi e gesti dell'ombrello, le sconta per tutti. Votato al sacrificio come toro pugnalato, ha una sola missione nella vita: incassare. Capisci di avere davanti un Cervo Volante quando vedi un'auto senza controllo ondeggiare incerta da una parte all'altra della strada, con la freccia sempre dal lato sbagliato. È talmente abituato ad incassare corna che anche quando non fa nulla di male, le corna se le fa da solo. Circolano in rete numerosi selfie di questo individuo che si offre spontaneamente nel ruolo del cornuto nelle foto di gruppo. Ma il più odiato in assoluto da tutti gli automobilisti del pianeta, quello contro cui non c'è vendetta soddisfacente, è certamente Bisonte Piazzato. Bisonte Piazzato, parente di Mina Vagante, è il più temuto da chi ha fretta. Lo riconosci perché si piazza sempre dove non deve stare, ingombrante quanto un tir con la sua station wagon tirata lucido. Popola indiscriminatamente ogni corsia di sorpasso, piazzandosi ad una velocità costante, mediamente 40-50 all'ora al di sotto del limite imposto. Puoi lampeggiarli, stromezzarli col clacson, imprecare, strapparti i capelli, tentare l'affiancamento. Niente da fare. Lui ha deciso che ha diritto di stare lì e da lì non si muove. Quelle rare volte che riesci a sorpassarlo e ti affianchi per guardarlo negli occhi e mandarlo a quel paese, lui nemmeno si è accorto di te e continua imperterrito a guidare come se nulla fosse successo. Ingombrante ed irremovibile, puoi agitarti quanto vuoi, tanto non lo sposti nemmeno con le cannonate. Faro seduto, Mina Vagante, Re Corvo, Cavallo Bianco, Coda di Sciacallo, Cervo Volante e Bisonte Piazzato sono solo alcune delle nostre magnifiche attrazioni. Veniteci a trovare in coda sul grande raccordo anulare e per chi passa dal casello della Roma Napoli, ogni 3 biglietti, Autostrade per l'Italia ve ne regala uno in omaggio. Venite gente, venite, accorrete!